ragazzino con un gruppo quando avevo sui 13 anni e da lì insomma mi sono fatto le ossa anche suonando i pezzi anni 60 fino ad arrivare appunto a avevo la possibilità di entrare nel gruppo che accompagnava Morandi e quindi poi per 2 anni accompagnarlo nelle varie serate. C'era un certo Luigi Albertelli, famoso autore poi anche assieme. Dunque, nel gruppo c'era Riccardi. Sì, perché esatto. Allora, del duo Riccardi Albertelli, Riccardi era l'autore delle musiche, Albertelli dei testi. Quindi del gruppo che accompagnava Morandi c'era anche Riccardi, anche Riccardi. Come tastierista. Benissimo. Qualcuno all'epoca, c'era una parte c'era Gianperetti, il Donovan italiano, e qualcun altro diceva che eri te il Donovan italiano. Cosa dici? Beh, ma sai, allora in quegli anni si viveva un po' anche, naturalmente chi tra musicisti e cantanti faceva una certa ricerca, ascoltava chiaramente sia Dylan che Donovan, insomma le nuove tendenze che erano quelle del folk, in particolare a me piacendo molto approfondire la chitarra, ascoltavo anche appunto il finger picking che veniva appunto usato da Donovan in particolare e quindi niente, io seguivo anche questi modelli per evolvermi anche come chitarrista. Ma guarda, io sono molto amico di Pieretti, per cui molte volte parliamo di quel periodo e ne parliamo appunto confrontandoci un po' su quello che sentivamo allora, proprio come nostra tendenza, e quindi insomma ci ritroviamo anche in un certo senso. A proposito di finger picking, io ho letto da qualche parte, l'ha scritto Ernesto Del Pascale, tu sei volato in America con Ricky Gianco a suonare a musica finger picking, è così? No, beh, questo è imprecisato. È imprecisato, lui parlava che te e Ricky Gianco siete stati in America. No, probabilmente questa è una cosa sbagliata. Diciamo che io sono stato prodotto da Ricky Gianco. Sì. Quando aveva fondato la sua etichetta in Tingo, certo. E praticamente avevamo realizzato questo mio disco, si intitola Il Tempo degli Dei, però il fatto che siamo stati in America a suonare il Pin Singer, sì, sarebbe stato bello, ma devo dire che non è successo. E ora era un'idea forse? Sai, certamente, guarda, allora, ritornando al discorso di prima, è che chiaramente... chi faceva musica, ma credo che chi fa musica anche adesso ascolta appunto quello che arriva dall'America. Il problema è che allora magari le cose dovevi proprio andartele a cercare di capire. Adesso c'è una comunicazione molto più, insomma, molto migliore. Certo, insomma. Certo. Per cui insomma, allora si faceva quello che riuscivi a maturare era perché proprio cercavi di andare a trovarlo. Poi che ne so, adesso voglio dire, no, se tu se a te serve un testo, capire cosa dice un testo in inglese, scrivi sul computer web e in un attimo hai il testo. Allora invece devi procurarti il disco, ascoltare bene, magari cercare di captare, e quindi si faceva anche più fatica, però magari questa stessa tecnica ti maturava di più, era un qualcosa che ottenevi non così facilmente, per cui lo assimilavi anche meglio, forse più con più cuore, non so, era un altro tipo di meccanismo. In effetti, queste nuove tecnologie, parliamo soprattutto di internet, danno una mano alla musica, ma a volte tolgono l'emozione anche di avere un disco nuovo in mano. Sì, no, infatti, no, per quello che dico. La fisicità. Noi allora vivevamo proprio di queste cose, magari desiderando un qualcosa che non sì. potevi ottenere subito, sì, no? Sì, sì, sì. E quindi questo desiderio faceva in modo che tu proprio volessi la cosa, no? Adesso non è che voglia criticare, anzi è comodissimo il fatto di avere al volo un qualcosa, no? Lo utilizzo anch'io il computer proprio per ottenere al volo delle cose, e comunque è cambiato proprio il modo di porsi, però il fatto di desiderare un qualcosa te la valorizzava anche di più e valorizzava sì. anche di più la tua emozione. Certo, e uno che sentiva molta musica americana era Maurizio Vandelli, che fu il tuo produttore del primo tuo grande certo. singolo, Malattia d'amore. Maurizio Vandelli, io non sapevo una cosa, ho letta proprio di recente, cioè ieri praticamente, tu hai partecipato anche a Id dell'Equipe, un disco molto interessante dell'Equipe. Sì, certo, perché avevo iniziato questa collaborazione con Vandelli. Vabbè, innanzitutto la mia entrata nel giro dei musicisti milanesi, perché è da lì che poi sono partito, era dovuta al fatto che ho iniziato anche a fare il turnista. Il turnista è una figura che è quasi scomparsa adesso. Perché allora se volevi ottenere anche un provino con quattro strumenti andavi in una sala, i musicisti suonavano e i turnisti erano quelli che erano disposti a fare il turno, che veniva naturalmente regolarmente pagato poi dalla casa discografica per fare questi provini, per ottenere magari una prima stesura di una canzone, no? Lavoravi per diversi cantanti, avere un aggancio. Esattamente. Sì, avere proprio un ascolto, no? Che poi si registrava su una lacca, non so se voi probabilmente siete giovanissimi, quindi non le lacche, no, io cioè, abbiamo visto, io l'ho vista la lacca. Sì, no, allora, per lacca si intende che proprio c'erano delle ti stampavano sì, un sì. pezzo unico. È no? vero, sì, verissimo questo, hai detto una cosa giustissima. E quindi appunto adesso invece sai col computer uno se vuole fare un provino magari anche con i suoni MIDI butta giù una cosa lo fa a casa. Quindi io avevo iniziato come turnista, come musicista e dopodiché ho avuto occasione di far ascoltare alcuni pezzi che stavo scrivendo alla Ricordi e quindi poi di essere affidato a Vandelli, che già produceva i Dick Dick certo. e altre situazioni. Sentiamo allora Malattia d'amore, cosa dici Donatello? Va bene, ok. Blu Radio Sera. Prende solamente il cuore questa malattia, l'amore. Comincia questa età, non ha senso senza te. Penso che potrai guarire e mi sento già morire. Una cosa brucia in me, è l'immagine di te. Alberi verdi, mille colori, una farfalla nell'aria più chiara, fra tanta gente infelice, felice sei tu. Ma la paura che senti lo sai che cos'è? Questa malattia, l'amore, incomincia questa età, non ha senso senza te. L'arcobaleno sorride nel cielo, dopo la pioggia ritorna sereno, nella tua anima bianca c'è posto per me. Blue Radio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. E nella seconda parte di Blue Radio Sera abbiamo iniziato, stiamo chiacchierando con Donatello. Maurizio. Sì, questo successo, Donatello, ti ha fatto vincere la gondola d'argento a Venezia, ti portò alla formazione di una band, tra cui c'era anche un secondo chitarrista che si chiama Claudio Dentes, che è il produttore di Elio e le Storie Tese. Sì, sì, sì, sì, sì. Vedi, sempre nell'ambiente di Milano, appunto, avevo fatto amicizia con Claudio, che stimavo anche molto come chitarrista e che praticamente ha iniziato a entrare un po' nel giro entrando nel mio gruppo. Sì, sì, questo è vero. Ma voi sapete parecchie cose. Ma mi sono informato, mi sono documentato. Una cosa che mi sono sempre chiesto, ma hai venduto più te con Io mi fermo qui nella tua versione o i Dick Dick? No, credo che abbiano venduto più i Dick Dick. Ecco, ma il produttore è sempre lui, è sempre Maurizio Vandelli, però, o no? Sì, sì, sì, sì. La produzione, diciamo che la produzione era la stessa, perché Vandelli appunto produceva sia i Dick Dick che poi me. E devo dire che molte volte si andava anche in sala appunto scambiandoci appunto la collaborazione anche dei suoni in sala con le chitarre, con i Dick Dick stessi, no? Per cui in qualche incisione dei Dick Dick ho suonato pure io, insomma. Quindi c'era uno scambio continuo, insomma, praticamente. Certamente c'era, si andava, la sala attualmente in quel periodo della Ricordi era situata in una cinema parrocchiale in via dei 500, dove oltretutto poi ha inciso anche Battisti. Sì. E quindi si andava lì per incominciare a realizzare le cose, essendo appunto nel team del Vandelli produttore, naturalmente partecipavo come appunto ho partecipato anche in parte alla realizzazione di Id, anche a tutte le produzioni che Vandelli faceva, quindi mi coinvolgeva magari come chitarrista per risolvere alcune sonorità. È bello che Io mi fermo qui fu esclusa dalla finale, tra parentesi, non partecipò. Ecco, appunto, sì, infatti volevo dirlo, cioè non arrivò in finale, quindi non ci aggiudichiamo la possibilità di arrivare alla finale, fummo esclusi. Esattamente. Ma succede spesso. Eh sì, ma fu un grande successo, poi, anche nel corso del tempo si ricorda spesso e volentieri Io mi fermo qui. Non è un... Sì, tra l'altro un pezzo che è stato fatto anche ultimamente dalla Vanoni, che ha scelto di fare due dischi in cui appunto sceglieva le canzoni più belle secondo il suo gusto, e nei due dischi ha messo sia Io mi fermo qui che Malattia d'amore. Certo. Ti ricordi l'impatto 1970, prima volta che andavi a Sanremo, com'era quel giorno, quel momento? Beh, naturalmente una grandissima emozione, sai, un ragazzino che improvvisamente si trova in una manifestazione poi ripresa dalla TV in diretta, insomma, credo di aver fatto fronte a questa emozione puntando anche sulla mia professionalità, che pur essendo fresca, quindi non una professionalità matura, era comunque una professionalità, insomma, in un certo senso mi ho fatto la gavetta suonando anche appunto da ragazzino, da 13-14 anni, quindi nel momento in cui andavo a Sanremo e avevo 23 anni, avevo già una decina d'anni in cui insomma avevo cantato in diversi palchi, non naturalmente a quel livello lì, però fisicamente potevo forse affrontare questa cosa. Certo. Allora, adesso sentiamo Io mi fermo qui nella versione dell'autore, molto spesso la sentiamo nella versione di questa è la versione dell'autore, di Donatello, un altro arrangiamento, ma chiaramente un altro fascino secondo me. Io mi fermo qui di Donatello. Blue Radio Sera. Come un sasso che l'acqua tira giù, io mi perdo nel blu degli occhi tuoi. La mia libertà non la voglio più, amo il bianco e tu sei candida. Qui io mi fermo, qui, qui dove vivi tu. No, più non cercherò un altro nido ormai. Tu sei l'acqua dopo il fuoco, non ti lascio più. Quel gabbiano che si nasconde in me, più non volerà in Africa. Quando sto con te, sento dentro me che tu abiti ormai nell'anima. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E per qualche minuto siamo tornati al 1970 con Donatello e Io mi fermo qui. E Donatello, come ricordato più volte, è in linea telefonica con noi. Maurizio, questo inizio folk Donatello, poi questo arrangiamento degli archi, l'idea dell'arrangiamento degli archi, c'è lo zampino di Maurizio Vandelli oppure no? No, allora spiego. Allora, intanto adesso mi è venuto in mente che in questa base qui la batteria l'ha fatta Franz Di Cioccio. Ah, vedi. Quindi è già un altro... Mica uno a caso. Sì, sì, ma è interessante. Bisogna scoprire. Cioè, tutte queste cose servono, secondo me, gli ascoltatori per capire cosa c'era dietro a un pezzo. Tante cose interessanti. No, perché oltretutto quando parlavo di turnista, sì. Diciamo che ai tempi Franz Di Cioccio, che faceva parte dei Quelli, sì, lavorava come turnista, no? Quindi lui e il bassista Fico Piazza, che era il primo bassista, appunto collaboravano a tantissime incisioni, soprattutto con la Ricordi. Quindi, e questa è una citazione che appunto volevo farvi, visto che a voi piace tirare fuori queste cose. Poi per quanto riguarda il pezzo, io avevo pensato questa sezione d'archi perché in quel periodo mi piaceva tantissimo un pezzo che tra l'altro la cover era stata fatta dalla Caselli, Il volto della vita, sì, che era Dave Burley Spencer. E appunto lì si sentivano degli archi che mi piacevano tantissimo. Allora ho voluto comunque, per ricreare questa atmosfera qua, creare un pezzo che avesse anche appunto degli archi che poi hanno un riferimento più che altro vivaldiano, perché avevo ascoltato molto Vivaldi, Le quattro stagioni, dove ci sono dei passaggi che hanno questo tipo di sonorità. E quindi l'avevo costruito proprio perché mi piaceva questa idea, con questo arpeggio iniziale di chitarre e poi con nell'inciso appunto questo sfogo di violini, queste scale. Insomma, avevo costruito un qualcosa che poi era piaciuto anche così, fatto con la chitarra, perché io mi ero presentato alla Ricordi e avevo chiesto se potevano ascoltarmi, e feci ascoltare proprio questo pezzo nel novembre del 69, quindi poi nel 70 febbraio la discografico della Ricordi, che aveva sentito il pezzo, aveva subito deciso che sarei andato a Sanremo. Da lì poi abbiamo trovato la coppia con i Dick Dick e quindi è scattato tutto. Insomma. Un'altra coppia, Donatello, nel 71 con Marisa Sania, mi pare. Ah, sì. Come sì. Dolce la sera. Sì, una cosa che io ricordo sempre anche nelle mie serate, nei miei concerti, perché Marisa Sania è una ragazza stupenda, dolcissima, e oltretutto... L'ultima volta che l'ho vista in TV ospite con Iva Zanicchi aveva parlato anche di me, anche se non ci sentivamo ultimamente, insomma ci eravamo un po' persi di vista, però ricordava il fatto che aveva fatto un Sanremo cantando una mia canzone in coppia con me, quindi mi ha fatto molto piacere questa cosa. La sentiamo, cosa dici? Certo, certo, certo, possiamo. Come Dolce la sera. Adesso la sentiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Un soffio e poi non posso più prenderti. Quella foglia che vola sei tu, io rimango qua giù. Tempo va e i giorni si allungano, torna il verde fra i rami per te, cosa cambia per me? Come dolce la sera, stasera c'è nell'aria qualcosa di te, la tua mano mi sfiora leggera e fra l'erba c'è un fiore per me. Io apro piano gli occhi, ti vedo, felicità. Un volo di rondini, ho capito la vita cos'è, e l'attesa di te. Come dolce la sera, stasera c'è nell'aria qualcosa di te, la tua mano mi sfiora leggera e fra l'erba c'è un fiore per me. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora con noi in diretta su Blu Radio Veneto la voce di Donatello, sia grazie alla sua musica sia al telefono con noi, Maurizio. Dunque, hai partecipato a Sanremo dal 70 al 73 ed hai fatto anche l'attore con Il diario di un italiano di Sergio Capogna. Sì, sì. In Diario in Italiano c'era una Mara Venier alle prime armi, è stato un film dove appunto anche lei era protagonista, eravamo i due protagonisti, era la storia di due, dell'amore fra due ragazzi. Cioè era un racconto di Vasco Pratolini, mi pare, vero? Sì, sì. E la colonna sonora l'hai scritta a te, mi pare? E ho scritto anche la colonna sonora, sì, sì, sì. Esattamente. Poi una cosa molto importante, sei andato al Progressive perché hai partecipato a collabori con Albero Motore. Ecco, sì, ecco, lì nel periodo con l'Intingo, sì? con Ricky Gianco. Ricky Gianco, ho collaborato anche appunto ad alcune realizzazioni dell'Albero Motore. Sì, e sì. Hai ancora collaborato anche con Gianfranco Manfredi, nel famoso Zombie di Tutto il Mondo Unitivi. Sì. E ne hai fatte parecchie cose interessanti nell'ambito dell'intelligenza, si può dire, musicale milanese. Sì, sai, in quel periodo c'era L'Ultima Spiaggia con Nanni Ricordi. Sì. È bello poter raccontare, poter dire, insomma, c'ero anch'io in quel periodo, perché attualmente dal punto di vista discografico non si capisce bene dove sono i discografici. E cosa stanno facendo, ecco. Allora c'era ancora un fervore, una voglia di lavorare, di ottenere sonorità, di cercare di scrivere anche canzoni interessanti, insomma. Io sono contento di aver vissuto quel periodo, perché adesso vedo che c'è un po' di calo, non vedo un grosso fermento, ecco. Esatto, sì, forse hai ragione. Leggevo sempre che hai inciso anche per l'etichetta di Maurizio Vandelli, La Moon. Guarda, con La Moon io ho fatto, perché c'è stato un periodo in cui seguivo un tipo di musica acustica, e quindi avevo fondato insieme ad altri amici musicisti di Tortona un gruppo canzoniere popolare tortonese, dove facevamo anche della musica soprattutto dialettale con degli strumenti acustici. Da lì è venuto fuori un discorso in italiano, e appunto è una cosa che ho realizzato sempre con Vandelli, con questa etichetta che aveva fondato, ed è l'unico prodotto che questa etichetta ha pubblicato. E c'era all'epoca, c'era un altro gruppo, c'è il discorso della musica etnica, musica popolare, anche gli Actual all'epoca facevano delle cose di quel genere. Sì, certo, sì, sì. C'era proprio il calzoniere era proprio c'era una ricerca della musica popolare all'epoca. Sì, era una ricerca della musica popolare che avevamo fatto, inizialmente avevamo prodotto due cassette, allora si usavano ancora le cassette. La prima era una serie di composizioni che avevamo fatto su dei testi che avevamo scritto noi, e quindi era un qualcosa che dovevamo riproporre sulla base di quello che era il nostro modo di sentire, quello che avevamo anche vissuto nel parlare il nostro dialetto. E invece in una seconda cassetta avevamo fatto più un'opera di ricerca, quindi avevamo trovato degli informatori che poi non erano altro che persone anziane che ricordavano alcune canzoni di allora, e in quali occasioni venivano comunque cantate, qualcosa che era comunque legato ad una civiltà contadina. Certo. Io ti ho visto recentemente, due anni fa mi pare, con Carlo Conti. Sì, l'anno scorso ho fatto un intervento con i Dick Dick. Sì, vero. Tra l'altro adesso riparte lo stesso programma, sì. I migliori anni, certo. Ti chiameranno ancora sicuramente. Ma sì, proprio oggi mi ha chiamato la redazione dicendo che incominciano a impostare le prime puntate. Bene, io ho piacere di partecipare, ho detto va bene, sì, quando sarà il momento parleremo. Devo chiedere un'altra cosa, ho letto sempre nelle note, c'è un disco rarissimo, Il Tempo degli Dèi, che io non ho mai visto in giro, pochissime copie. Il Tempo degli Dèi è un disco che ho fatto con la Intingo. La Intingo di Ricky Gianco. Di Ricky Gianco. diciamo che è un riferimento più folk americano, ecco. E, diciamo che anche lì la ricerca era sempre acustica, però rivolta a sonorità del folk americano. Certo. E adesso, Donatello di adesso, cosa fai, concerti, fai tournée, cosa fai adesso? Sì, io lavoro, continuo a lavorare facendo serate, concerti, a volte anche insieme ad altri cantanti di quegli anni. Mi vedo spesso con Pieretti, anzi ultimamente ho fatto il 14 agosto, ero a Cimolais nel Friuli, sì, e abbiamo fatto una serata insieme io e Pieretti. Bellissimo, bellissimo. Sì, ma poi adesso il 22 invece abbiamo una serata a Salso Maggiore, dove siamo in 6 o 7, Leano Morelli, Maurizio di New Dada, insomma facciamo parecchie cose insieme. E anche a settembre ci sono altre occasioni, partecipiamo a una notte bianca a Cambiano, che è un paese vicino a Torino, dove anche lì siamo c'è anche Gianni Pettenati, e in questa occasione vorremmo registrare più che altro dei backstage, no? Quello, sì, che possiamo dire anche dietro fra di noi, no? E abbiamo previsto delle telecamere per poi montare un qualcosa, vediamo se poi è interessante da pubblicare, da dare a qualche TV per fare un programma. Io e Sergio siamo stati incuriositi dal fatto che sei stato fonico per molti anni della Baby Records. Ma guarda, io facevo un po' di tutto, non ero espressamente un fonico. Io ho sempre avuto, mi è sempre piaciuto occuparmi anche del modo in cui si registrano i suoni, e in effetti fin da ragazzino, poi con Revox, cercavo, i primi provini li ho fatti così da solo, cercando di utilizzare le bobine con un Revox, che era un registratore professionale con il quale potevi fare il sound, no? Sì. E passare un canale dall'altro registrando un'altra cosa. Naturalmente si sommava il fruscio in un modo improponibile, però c'era ancora adesso delle cose che a volte ascolto e dico... In effetti le prime volte che registravo in digitale rimanevo molto stranito da proprio questa assenza di fruscio, no? Che forse era così, non so, affascinante. Dava vita, vabbè, poi era anche tipico del suono valvolare, no? Sì. Che tutti quasi rimpiangiamo. Ma adesso è un po' ritornato, il vintage, qualche gruppo, soprattutto americano, non l'hanno riproposto alla grande. Sì, ma infatti, sì, perché è un altro tipo di colore e calore. Cioè, sì, esattamente. Io ho un pezzo che mi piace particolarmente, non so, la datazione forse 1970, è Storia di un fiore. Io lo trovo un Donova assolutamente rivisto e corretto da Donatello, tuo. Ma, sì, a me piace particolarmente questo pezzo, è strano, non dico psichedelico, ma arrangiato un po' particolare, sì, è molto molto interessante. Potrebbe essere considerato un po' psichedelico, diciamo che il titolo del fatto di riferimento a un fiore è comunque tipico, no? di quel periodo, di l'epoca, no? Sì, dell'epoca, nel senso che appunto in quel periodo eravamo tutti figli dei fiori, e quindi prendere niente, mi era venuta questa idea, poi con Vandelli, sempre in via dei 500, l'abbiamo realizzato anche con questo organo Hammond, suonato in modo un po', suonato da Vandelli in modo molto particolare, quindi sì, è diventato in qualche modo psichedelico, anche se il testo poi in fondo racconta una delusione d'amore, certo. E quindi diciamo che era abbastanza tradizionale il testo. E a proposito di Vandelli andava in cerca di questi suoni particolari, il sitar l'ha introdotto lui nella musica italiana. Certo, sì, sì. Era una mente incredibile. Sì, sì, sicuramente. Poi, vabbè, magari è stato un suggerimento anche guardandosi intorno, sì, i certo. Beatles, George Harrison, sono d'accordo, però chiaramente erano tutti stimoli che lui riceveva e che cercava di tradurre anche con l'Equipe 84. Ci vedi, Donatello, Siamo agli sgoccioli. Siamo agli ormai. Sgoccioli. Sì. Verrai anche dalle nostre parti a fare qualche esibizione qua a Padova, nel Veneto? Ma guarda, dunque, per il momento non hai problema, però guarda, ci teniamo in contatto, magari ci sentiamo, può essere che possiamo incontrarci. Certo, anche fare un giretto anche qui da noi con la chitarra. Sì, certo. Fare qualche tassello di questa bellissima la musica degli anni 70. E non solo, chiaramente. Beh, lo invitiamo al nostro live al mercoledì sera. Esattamente, noi abbiamo un live che facciamo tutti i mercoledì sera, in cui i musicisti vengono a suonare e suonano dal vivo, assolutamente dal vivo. Certo, possiamo metterci d'accordo e organizzare. Okay? Certo. Storia di un fiore allora, Donatello, un pezzo bellissimo e grazie di questa conversazione. Grazie a voi. Ciao Donatello, grazie. Ciao, grazie di tutto. Un saluto a tutti. Ciao. Blu Radio Sera. Rimane solo nel prato di un cuore, un fiore ostinato che non vuol morire. Se non sai, questo è l'amore che mi dai. Verranno i giorni del male, qualcuno dirà che non pensi più a me, è tanto triste scoprire che un fiore può anche ammalarsi e non vuole più bere. Se vorrai, solamente tu lo innaffierai. E torneranno i giorni del sole. Tornerà il fiore d'ogni colore, appassirà nel silenzio di un cuore malato che non ha più nome. Se non sai, questo è l'amore che non dai. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed è tempo di chiudere anche per noi. Come al solito abbiamo sforato un pochino, 22 e 38 minuti. Stasera siamo stati in compagnia del trio Paraguay fino dalle 9 alle 9.50-55. Poi insieme al mitico Donatello, cantautore che ha operato soprattutto negli anni 70. Vabbè, l'abbiamo sentito qui su Blu Radio Veneto in Blu Radio Sera. Maurizio, cosa abbiamo dell'altro da dire? Oppure? Vale, vuole in pentola che la prossima settimana, il prossimo martedì, dalle ore 21 ci sarà un concerto dal vivo, Rockwave anticipato, live, riprenderà a settembre, però facciamo un'anticipazione con Elisa Rovida, che è una musicista di bresciano, una cantautrice folk, più che folk, jazz, molto interessante, verrà con il chitarrista, quindi ci presenterà questo suo disco che si chiama Rinascimento. E per quanto riguarda, no, domani avete già ripreso con i live oppure no? Sarà Renato Ferro, il suo metal, e prima dalle 9, dalle 21 alle 22:30 ci sarà Roberto Baldi. E il live riprenderà quando? Dal primi di settembre, il primo settembre esattamente, con un chitarrista, mi pare sia il primo settembre, mercoledì? Stavo guardando ma non ci vedo. Eh sì, il 31 agosto è martedì, quindi il 1 settembre è mercoledì. Ok, allora da Sergio Moritz è tutto, ci sentiamo martedì prossimo per altre chiacchiere musicali. Dal vivo stavolta con la chitarra e c'è una voce meravigliosa, quella di Elisa Rovida, prossimo mercoledì, martedì. Martedì, alla prossima! Grazie, ciao! Blu Radio Veneto.